24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:33 minuti, eccoci cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Vi dico subito che nel nostro sondaggio di oggi, che potete votare su radio24.it, bianco nero, parliamo di federalismo meteorologico. Perché il governatore del Veneto Zaia ha detto: spesso a Roma sbagliano le previsioni del tempo e questo crea danni ai turisti, non distinguono, che ne so, Trieste da Venezia. C'è una bella differenza. I turisti poi magari vedono che c'è pioggia e non vengono. Federalismo meteorologico. Che ne pensate? Radio24.it, andate lì a votare, siete d'accordo? E ne parleremo alle 8:30. Ora i giornali. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, Inspired Performance. Vi presenta In Primo Piano. Guardiamo solo qualche titolo dei maggiori quotidiani. Tassa europea sulle banche per il Sole 24 Ore, una scelta economica anche per la Stampa. Tassa sulle banche, sì, dell'Unione Europea. La Repubblica invece: mani libere per imprese e case, ecco la riforma costituzionale. Mentre la scelta sulla condanna dell'ex capo della polizia De Gennaro è per il Corriere della Sera. De Gennaro condannato per la vicenda del G8. Ma poi svilupperemo, se c'è tempo, all'interno con la lettura degli articoli. Allora, come detto, la questione politica che è sulle prime pagine dei giornali, sviluppata un po' da tutti, è questa, e cioè sempre la vicenda annosa che parte dalle intercettazioni e che crea malumori soprattutto tra Fini e Berlusconi. Ora c'è anche la questione Bossi, che ieri ha parlato con Fini della necessità probabilmente di fare delle modifiche a questo disegno di legge intercettazioni. Asse Bossi-Fini sulle intercettazioni, questo si legge sul Sole 24 Ore a pagina 18. Donatella Stasio racconta: dopo Fini, Bossi, il leader della Lega, passa dalle parole ai fatti, e dopo l'apertura di mercoledì alle modifiche, ieri ha confermato al presidente della Camera l'intenzione di seguirlo sulla strada dei cambiamenti al disegno di legge intercettazioni. Insomma, punti da cambiare che anche la stessa finiana Buongiorno, presidente della Commissione Giustizia della Camera, ha detto: ci sono dei punti da cambiare. E tra l'altro la Buongiorno viene citata da Repubblica, insomma, a dire: ci sono dei punti da cambiare, e li cita partendo, ispirandosi a Platone, dicendo espressioni come "mi piacerebbe dibattere", "sarebbe bene approfondire", e come diceva Platone, il principio che è la confutazione è la liberazione degli errori. E tutto questo politicamente crea dei gran mal di pancia a Silvio Berlusconi, e questo lo leggiamo un po' ovunque. Sfogo del Premier, mani legate per colpa di Fini. Pagina 5 del Corriere, è un Berlusconi definito di pessimo umore nell'articolo di Paola Di Caro. Perché Berlusconi deve scegliere se mettere mano per l'ennesima volta al disegno di legge e modificarlo nei punti elencati appunto da Giulia Buongiorno, oppure abbandonare il provvedimento al suo destino. A questo punto siamo. Addirittura per Salvatore Dama su Libero, Gianfranco Fini viene definito anti-italiano da Berlusconi, definito furioso col cofondatore. È vero che Berlusconi ieri ha detto ai giornalisti, ai taccuini: con voi non parlo tanto, inventate tutto. Il portavoce Bonaiuti ha smentito un po' in retroscena, apparsi sui giornali, ma pare che il clima sia questo. Anche Liana Milella su Repubblica: Berlusconi strattonato da falchi e colombe, questa battaglia è diventata inutile. Per il Fatto Quotidiano addirittura l'apertura è questa: Berlusconi imbavagliato, in prima pagina la tenaglia Fini-Bossi, i dubbi del Quirinale, i forti rischi di incostituzionalità, il Premier finisce all'angolo, ma medita il contrattacco. Ecco, il contrattacco. Quale sarà il contrattacco? C'è da dire che probabilmente un contrattacco potrebbe venire oggi. La notizia la dà solo il Corriere della Sera, pagina 13, e riguarda la figura di Aldo Brancher, che è un fedelissimo di Berlusconi, da anni, da lustri anzi, una sorta di pontiere tra Berlusconi e Bossi, tra Berlusconi e la Lega. È stato sottosegretario alle riforme dal 94 a oggi, cioè nel 94, da oggi, fino a oggi appunto ha questa fama di pontiere. Allora, su alcuni giornali viene definito come il possibile sostituto di Scajola, prendendo l'interim di Berlusconi, ma invece il Corriere dice qualcosa di più. Attenzione, secondo il Corriere della Sera, Berlusconi oggi potrebbe togliere il coniglio dal cilindro e creare un nuovo ministero. Il ministero all'attuazione del federalismo, e mettere a capo di questo ministero Aldo Brancher, per l'appunto. Sul suo nome c'è già il sì di Bossi e di Tremonti. Questo scrive Monica Guerzoni. E invece a chi andrebbe al posto dello sviluppo economico, cioè di Scajola e dell'Inter di Berlusconi? Sarmi. Quindi, insomma, mentre tutti i giornali dicono che Aldo Brancher potrebbe prendere Scajola, questa notizia c'è solo sul Corriere. Aldo Brancher non prenderebbe il posto di Scajola, ma per lui verrebbe creato oggi un nuovo ministero. Con anche, immagino, le annesse polemiche a dire: ma come un nuovo ministero, proprio nel momento in cui si taglia, nuove poltrone, eccetera. Il ministero all'attuazione del federalismo. E certo, vista così, sembra proprio, come dire, un rafforzamento all'alleanza strategica con Bossi, no? L'attuazione del federalismo, ministro Brancher. Vedremo se oggi tutto questo si rivelerà una bufala oppure un qualcosa di vero. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri. Riguardo alla vicenda intercettazioni, mi piace leggere ciò che oggi Giuliano Ferrara dedica in prima pagina sul Foglio, un articolo molto lungo, un editoriale sfogo, bisogna dire. Il titolo è emblematico: Berlusconi, il gigante inetto, firmato dal proverbiale elefantino, dunque da Giuliano Ferrara. È un articolo molto lungo. Berlusconi è un gigante, inizia così: lo è quando cede, lo è anche quando cede rovinosamente terreno, quando sbatte la faccia contro il muro, quando si scopre impotente, rassegnato, pronto a mollare tutto. Ma Berlusconi è anche un inetto, sbaglia così spesso che uno si domanda come accada che sia ancora vivo. La battaglia sulla privacy è solo l'ultimo episodio in cui il gigante si comporta in apparenza da sciagurato, da inabile. Fu avvertito Berlusconi dai consiglieri: attenzione, questo è un paese borbonico, uno stato di polizia, siamo culturalmente impreparati alla libertà. Alla fine le risulterà difficile sfidare dal punto di vista dell'autosufficienza della sua maggioranza al partito molosso di PM e giornalisti. Il consiglio finiva così: molli la legge bella impossibile, prenda il testo Mastella, approvato da tutti. Niente da fare. Per Berlusconi, gigante anche dell'antipolitica applicata, la parola politica e l'esperienza politica sono perdite di tempo. Risultato: la ritirata non strategica nel momento culminante dello scontro sulla decisiva questione della difesa delle vite degli altri dall'intrusione ossessiva dello Stato di polizia. E scrive Ferrara: a Berlusconi non piacerà che noi si metta in piazza la realtà della ritirata per amore di verità e per edificazione e formazione di una buona cultura politica di governo, ma alla fine se ne impippa. Sono cose per politici di professione, alla gente non interessano. Il bello è che forse ha ragione lui, il colosso che incorre in strafalcioni giganteschi. Magari tra 2 settimane un tribunale manda assolto Dell'Utri e tutto cambia, si apre una nuova stagione, oppure si passa un'estate così così e toccherà fare eruttare nuovi vulcani in villa, spendere nuovi grandi umori e rumori dalla reggia itinerante. Chissà, tutte le volte che uno pensa all'errore fatale di Berlusconi, alla cagione della ruina sua, deve sempre pensare anche alla sua fortuna machiavelliana, al suo spirito di domatore del circo italiano, alla circostanza decisiva e finale. Questo paese, a occhio e croce, non volterà le spalle a un principe nuovo che è stato tanto capace di sorridergli. Ecco perché, conclude Ferrara, Berlusconi sbaglia con disinvoltura, diremmo perfino con voluttà. Ecco perché gli sbagli lo attraversano senza conseguenze, come acqua che scivoli sul marmo. Berlusconi, il gigante inetto, questo oggi Giuliano Ferrara sul Foglio. La partita politica è qui, i mal di pancia, che fare ora di questo disegno di legge intercettazioni? Si direbbe, Berlusconi, abbandonarlo, portarlo a settembre, modificarlo. Vedremo come andrà a finire. L'altro tema politico, perché politico lo è diventato, è la condanna in appello, ribaltando la sentenza di primo grado, a Gianni De Gennaro. 16 mesi all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, 1 anno e 4 mesi per la precisione, per aver istigato l'ex questore di Genova Colucci a mentire al processo al G8 le violenze per l'irruzione alla scuola Diaz. Fa sapere Repubblica Carlo Bonini che De Gennaro era pronto a lasciare. E ora ha detto, sarebbe stato questo il suo sentimento: adesso saluto tutti e me ne vado. E l'assoluto stupore per una sentenza che capovolge l'assoluzione di primo grado a fronte di un materiale probatorio rimasto immutato. Poi, scrive Bonini, De Gennaro non è un uomo che ragioni di pancia e dunque, dopo una telefonata con Gianni Letta, braccio di Berlusconi, sottosegretario, ha cambiato idea. I commenti politici, beh, sono il governo e della maggioranza c'è totale sintonia, ma anche per esempio il PM Casson, dunque del Partito Democratico, prudente, aspettiamo, anche Andrea Orlando del Partito Democratico, aspettiamo le motivazioni, infatti viene sottolineato da tutti come il grande poliziotto da sempre più bipartisan che ci sia in Italia. Addirittura Iole Santelli, sottosegretario alla giustizia sul secolo XIX, viene raccolto questo sfogo e viene messo a titolo: i giudici che l'hanno condannato sono angeli vendicatori degli ayatollah della procura. Chi invece plaude alla sentenza è per esempio Giuliano Giuliani, il papà di Carlo, morto durante le violenze del G8, e, perché ucciso dal colpo partito da Placanica. Questo ha accertato la verità giudiziaria. Finalmente mi sento in un paese normale, in questo strano posto che è l'Italia. A volte ti sorprendono notizie che ti fanno illudere di essere in un paese normale. Noi la storia la conosciamo bene, dice Giuliano Giuliani a Repubblica. Purtroppo la sentenza di primo grado era stata semplicemente scandalosa. Anche il Manifesto è molto duro, addirittura c'è la foto di Gianni De Gennaro in prima pagina con il titolo Black Bloc. E il commento è affidato a Giuliano Pisapia, la verità su Genova. Lentamente ma inesorabilmente sta emergendo anche a livello giudiziario la verità su quelle giornate di macelleria cilena nelle quali sono stati massacrati nel luglio 2001 non solo corpi ma anche anime, speranze, utopie. La condanna dell'ex capo della polizia per istigazione alla falsa testimonianza arriva dopo la condanna di agenti, funzionari, ufficiali, generali per le violenze e i trattamenti disumani e degradanti di 250 pacifisti nella caserma Bolzaneto, vere e proprie torture che non è stato possibile contestare agli imputati perché, malgrado le continue sollecitazioni dell'Unione Europea, tale reato ancora non è previsto dal nostro codice penale. La verità su Genova è il commento in prima pagina sul Manifesto di Giuliano Pisapia. Ripartiremo dall'economia. Oggi è un giorno importante, il Consiglio dei Ministri si vuole proporre come cambiare la Costituzione, la riforma dell'articolo 41 e articolo 118 per la libertà d'impresa. In primo piano, la nuova carta per l'economia, così Dino Pesole a pagina 6 del Sole ci spiega molto bene che cosa succederà molto presumibilmente oggi in Consiglio dei Ministri, quando verranno apportate le proposte per modificare l'articolo 41 e 118, che sono ovviamente citati, della Costituzione, per dare un nuovo impulso allo sviluppo del paese dal punto di vista imprenditoriale. Nello scenario globale l'Italia davanti a sé l'alternativa tra declino e sviluppo. Se si vuole il declino basta lasciare le cose come stanno, se invece si persegue lo sviluppo occorre scaricare una parte della zavorra. Parte con questa premessa nella relazione esplicativa lo schema di disegno di legge costituzionale in materia di libertà d'impresa che affronta oggi l'esame preliminare del Consiglio dei Ministri, scrive Pesole. Sono due nuovi commi da aggiungere all'articolo 41 della Costituzione, il più importante dei quali è questo: gli interventi regolatori dello Stato, di regioni ed enti locali che riguardano le attività economiche e sociali si informano al controllo ex post, cioè si vuole creare appunto uno sgravio, favorire l'autocertificazione, favorire il principio di responsabilità, cioè favorire lo sviluppo delle imprese e togliere anche tutti quei lacci e lacciuoli che in Italia sono da questo punto di vista molto molto stringenti. La nuova carta per l'economia, c'è anche uno schema di quanto è il peso della burocrazia in Italia. Per esempio, rispetto agli altri paesi, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Ungheria, una concessione edilizia ci vogliono 257 giorni in Italia, quando per esempio in Danimarca ne bastano 69, in Francia 137, in Grecia 169, solo il Portogallo è messo ben peggio di noi, arriva a 328 giorni. Per l'apertura dell'impresa 10 i giorni per adempimenti amministrativi in Italia, in Belgio 4, in Danimarca 6, in Francia 7, in Ungheria 5, in Portogallo 6, noi siamo a 10 per l'appunto. E poi anche per i tipi di impresa: autoriparazione, fotografica, lavanderia, ristorazione, trasporto rifiuti, tutto uno schema che fa capire come siamo un po' ingessati, e questo è il tentativo, cambiando l'articolo 41 della Costituzione, di rilanciare l'economia. A proposito di economia, o meglio di finanza, che succede? Ieri si sono riuniti i capi di governo a Bruxelles e è l'altro tema che trovate sui giornali e sui quali molti aprono: l'ipotesi di una tassa sulle banche. In realtà Adriana Cerretelli a pagina 2 del Sole spiega che sono due le ipotesi di tasse. Al vertice verrà tutto elaborato, al vertice del G20 a Toronto settimana prossima. Una è sulle banche, destinata a creare fondi nazionali anticrisi o comunque un nuovo cespite di entrate per abbattere i deficit pubblici, o comunque anche per recuperare i monumentali aiuti di Stato che sono stati erogati al tempo della crisi finanziaria per evitare il tracollo. L'altra ipotesi di tassa è sulle transazioni finanziarie. Comunque sono decisioni che non verranno prese prima di ottobre, quindi se ne discuterà molto, ma siamo ancora abbastanza in alto mare. L'Italia, ha fatto sapere Berlusconi, non seguirà senza un'intesa a livello di G20, dunque se c'è un'intesa a livello di G20 verranno applicate anche in Italia, altrimenti no. E poi anche per quel che riguarda le due tasse, sia anche per quella sulle questioni finanziarie, sulle transazioni finanziarie, per ora l'intesa tra i 27 non va oltre l'accordo di principio, insomma se ne sta discutendo, ma sono ipotesi che stanno iniziando a circolare. Per quanto riguarda la cronaca, alcune segnalazioni. Verrà convocato il cardinal Sepe, il cardinale di Napoli, dai magistrati che indagano sul G8, sulla vicenda del G8 e gli appalti, perché Bertolaso ha detto: ho avuto quella casa, la casa di Bertolaso, grazie all'appoggio del cardinal Sepe, è tutto gratuito. E ancora il Corriere fa sapere: il proprietario della casa invece dice pagavo Diego Anemone anche le bollette. Chi mente? Questa è la domanda che si ripete da vari giorni. Dei due verrà convocato anche il cardinal Sepe, che era capo di propaganda Fide e che avrebbe procurato la casa secondo Bertolaso, per cercare di capire chi mente. Siamo all'ultima segnalazione, è una segnalazione che riguarda molte famiglie italiane, la leggo da Carlo Rimini, pagina 26 della Stampa. È una indagine fatta in Inghilterra su 12.000 famiglie, niente divorzio se lui fa le pulizie. Ebbene sì, una delle maggiori cause di divorzio, secondo questo studio inglese su 12.000 famiglie, è che lui non fa niente a casa, il gran classicone: non collabora alla pulizia di casa, non aiuta a curare i figli, la sera non li mette mai a nanna. E allora questi inglesi dicono: il matrimonio può finire anche senza fatti eclatanti, solo perché la vita insieme è troppo difficile. Una gran ricercona, insomma. Vabbè. Votate, che ne pensate del federalismo meteorologico che propone Zaia, che dice: a Roma sbagliano spesso le previsioni del tempo e poi i turisti leggono pioggia, magari c'è sole e fuggono. Sono le 8:18 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua nuovamente 24 mattino con la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci Deborah. Buongiorno. Buongiorno, scusami ma stavo sbagliando cuffia stamattina. Ricominciamo. Strano. Con le vecchie brutte abitudini. Buongiorno a tutti, come volume stai? È da un po' che non volume mi chiedi posto, volume a posto. E certo, adesso me lo gestisco io da quest'altra parte. Ah, ecco perché. Mi sono dissociata da te, mi sono affrancata dalla tua collaborazione tecnica. Allora, oggi carissimo, ti rubo il mestiere, ci mettiamo un po' in linea con il bianco e il nero, con bianco e nero, e lanciamo anche noi un sondaggio. Vorremmo anzi proporre proprio una bella raccolta di firme su un tema di vitale importanza per il bene di questo paese: la Nutella. Non ce la vorranno mica abolire, vero? No, speriamo di no. No, so che anche tu hai un po' monitorato questo argomento di cui si è discusso a Bruxelles nei giorni scorsi, perché c'è stata questa decisione del Parlamento europeo di introdurre l'obbligo di indicare il profilo nutrizionale sulle etichette dei prodotti alimentari, quindi una stretta sulle etichettature. Ed è stata una decisione che ha allarmato anche i molti estimatori di uno dei prodotti più amati dagli italiani, proprio proprio la Nutella. In realtà rischiava di passarne anche un'altra di legge che avrebbe obbligato l'introduzione di una sorta di semaforo che indicasse e segnalasse i prodotti più o meno sani, in modo da limitare la pubblicità dei prodotti ipercalorici. E forse proprio questa legge avrebbe minato gli estimatori, appunto, della Nutella. Questa legge non è passata, ma perché abbiamo fatto tutto questo preambolo? Perché tutto questo potrebbe essere un tipico tema di approfondimento de ilfattoalimentare.it, che è un sito internet realizzato da un gruppo di giornalisti e non solo, dedicato a tematiche consumeriste e anche a tutto ciò che attiene alla scelta consapevole dei beni alimentari, ovviamente tutte le tematiche anche legate un po' alla salute e anche alla convenienza. Insomma, troviamo tante informazioni interessanti. Allora, siccome è nato molto di recente, stamattina abbiamo disturbato, spero che sia venuto volentieri a Soldi e Dintorni, il direttore responsabile del fattoalimentare.it, Roberto Lapira, che saluto. Roberto, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Oltretutto anche collaboratore delle Sole 24 Ore. Allora, come è fatto questo sito? E per esempio, ho detto bene quando ho spiegato che per esempio il tema della stretta sulle etichettature decisa dal Parlamento europeo potrebbe essere un tipico tema di approfondimento del vostro sito di informazione? Sicuramente, infatti oggi usciremo con un editoriale di Dario Dongo su questo argomento e poi faremo degli approfondimenti, perché come al solito le notizie la Nutella fa sempre notizia nel bene e nel male, però al Parlamento europeo sta discutendo di una cosa che di fatto c'è già, perché le indicazioni nutrizionali sui prodotti confezionati ci sono da anni in modo volontario su centinaia e centinaia di prodotti industriali. Diciamo che lì vengono regolamentate e stabiliti se bisogna mettere 7, 8, 9 o 10 indicazioni e quali mettere, ma è un falso problema perché in realtà ci sono già, i prodotti industriali da anni li mettono, è una cosa che è iniziata 7-8 anni fa e adesso ci sono, per cui lo diremo chiaramente. E la questione del semaforo è anche qui una questione più o meno un po' di lana caprina, non è così evidente, è un altro modo di indicare le cose più evidenti che usano gli inglesi. Per cui non si tratta di bocciare o promuovere un alimento, ma si tratta di fare della comunicazione il più possibile trasparente. Un'etichetta con un semaforo, secondo noi, è più efficiente, un bianco, rosso, verde, per far capire se ha tanti grassi o se ha tanti zuccheri. Poi, infatti, qualcuno peraltro, Roberto, ha paragonato questa questione a quella del monito che viene dichiarato appunto sul pacchetto di sigarette, attenzione fa male alla salute, e qualcun altro ha detto in sostanza magari tutto questo non c'è bisogno perché se ci atteniamo a regole di buonsenso possiamo già adottare dei comportamenti virtuosi anche con il settore alimentare. Non è sempre così, perché abbiamo anche dei comportamenti distorti molto spesso. Noi siamo ovviamente, come dire, con la nostra dieta mediterranea, mangiamo comunque bene o male, tanto non lo so. In ogni caso, questo è il tema di cui si discute in questo periodo, ma ci puoi raccontare anche quali altre notizie possiamo trovare sul vostro sito? Tieni conto che a Soldi e Dintorni parliamo di prezzi e ai nostri ascoltatori interessa anche capire se per esempio esplorate questo campo, andate in giro fra i supermercati, fate delle indagini anche su questo. Allora, noi ci occuperemo di informazione, di sicurezza alimentare, di prodotti, di pubblicità ingannevole e poco di benessere, perché ne parlano tutti di benessere, ma noi parleremo invece di prodotti, di cose concrete. Lei parlava di prezzi, beh, di prezzi sì, noi abbiamo, per esempio, già siamo usciti 2 giorni fa ufficialmente, c'è un confronto sui prezzi, andiamo ai supermercati e facciamo delle ricerche di mercato sui listini. C'è un'inchiesta fatta da MKTG, che è una società di ricerca di mercato, che confronta i listini dei prodotti di marca come Barilla, Levissima, Tonnerre Mare, venduti negli hard discount, e sono gli stessi prodotti poi venduti al supermercato. Evidenziamo che in alcuni casi c'è uno sconto del 5-10%, quindi gli stessi prodotti, e in altri casi invece il prezzo della pasta Barilla, della Levissima e dell'acqua Levissima rimane assolutamente identico, quindi uno sconto spesso ridotto, non come per gli altri prodotti, ma comunque a volte non c'è. Anche per il latte abbiamo fatto una nota in cui si evidenzia come il latte fresco si può comprare da 0,64 a 1 euro quando c'è la marca del supermercato, Esselunga, Auchan, Carrefour, la Coop, private label in sostanza la chiamano così. E invece arriva a 1,20, 1,40 per quanto riguarda le marche più conosciute. Quindi noi siamo sui prezzi, gli argomenti del nostro sito il fattoalimentare.it sono i supermercati, il packaging, i prezzi, le allerta, quindi i prodotti vengono ritirati dal mercato, anche le recensioni e le bufale, che è un titolino dove noi mettiamo la cattiva informazione che viene fatta sui media, sui giornali, su alcuni prodotti che purtroppo ci sono abbastanza spesso sui quotidiani di tutti i tipi. Direttore, ci può fare un esempio, per esempio, proprio di questo, un esempio, per esempio, su questo? su questa storia qui delle recensioni esattamente delle buffale, sì, infatti, ragazzi, anche perché no, quello che io consideravo anche ieri con il mio assistente che mi ha aiutato a preparare questa trasmissione è che in realtà noi abbiamo adesso una proliferazione di informazioni su questo argomento come su tanti altri. Ci sono molti siti, se ne occupano direttamente le associazioni dei consumatori, gruppi di acquisto, molte pagine di giornali vengono dedicate ai temi consumeristici, però qualche volta si ritiene che in Italia in realtà non ci sia un'informazione corretta su questi campi, è così? Ah, l'informazione ormai ce n'è dappertutto, per cui ormai l'informazione arriva attraverso dal TG1 che fa delle informazioni più o meno scandalistiche su dei problemi reali per fare colore, ai siti internet, ai quotidiani, alla radio, ormai l'informazione arriva in mille modi alle persone. Il problema è selezionare a questo punto, perché non è che sono tutte buone, molti si limitano a riprendere le agenzie, altri invece le riprendono anche in modo un po' fantasioso, con troppa libertà. Noi qui riprendiamo per esempio un articolo che è stato fatto su Repubblica estrapolando uno studio di Science fatto da un esperto dell'Istituto Superiore di Sanità che vive in America, in cui in pratica raccontava come riducendo di un 10-20% le calorie di ogni giorno si poteva vivere un po' di più, che è uno studio molto serio. La Repubblica, questa collega qui, però alla fine faceva intendere con tutta una serie di elementi che non posso riassumere in pochi secondi, come questa sorta di ristrettezza di dieta con poche calorie valesse solo per vegetariani, vegani e persone di questo tipo. In realtà noi siamo andati direttamente alla fonte e abbiamo verificato che non è così. La riduzione di calorie di un 10-20% sulla dieta permette a tutti di stare meglio, e invece il prospetto generale lasciava intendere come si trattasse solo di vegani e vegetariani, il che, come dire, nuoceva un po' alla notizia. Benissimo, direttore, noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, il sito è già partito, quindi ufficialmente è partito 2 giorni fa, i 3 collaboratori, ricordo, Silvio Garattini, Dario sì. Dongo, Garattini, Gianna Ferretti, insomma siamo un gruppetto di gente che vuole stare un po'. Buon lavoro allora, speriamo di poterci risentire presto. Grazie, ricordo voi, ancora il fattoalimentare.it. Alessandro. Eccoci. Allora, ieri nei nostri studi di Radio 24 è venuto a trovarci, pensa un po', il segretario delle finanze argentino, Hernán Lorenzino, ci ha rilasciato una lunga intervista sulla questione dei Tango Bond e oggi, ripartendo un po' dalle sue dichiarazioni, speriamo di fare una delle ultime puntate di questa storia che è veramente dedicata, è diventata una vera e propria soap opera, una telenovela, non so come definirla. Argentina e telenovela. Giustamente. Ciao. Allora, grazie, faremo il federalismo meteorologico. Il governatore del Veneto Luca Zaia dice basta con chi fa le previsioni del tempo in TV e mette il dito sul Veneto senza pensarci prima 10 volte a dire che piove, magari non distingue Trieste da Venezia, Chioggia da Verona, magari le fa da Roma e poi i turisti scappano. E allora, le previsioni meteo, parliamo di questo. Siete d'accordo con Zaia? Radio24.it per votare oppure 800 24 00 24. Vi lascio al meteo e poi rientriamo. Sono le 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora parliamo, abbiamo sentito poco fa il meteo, può sembrare una boutade ma non è così. La proposta del governatore del Veneto Zaia, un po' tra il serio e il faceto, ma a dire attenzione alle previsioni meteo, soprattutto nelle regioni dove il turismo è una fonte importantissima, sbagliare le previsioni meteo può creare seri problemi anche economici. È il nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Auspicando una sorta di federalismo meteorologico, il governatore del Veneto Luca Zaia ha detto chi fa le previsioni del tempo e mette il dito sul Veneto, per esempio, pensi 10 volte prima di dire che piove. Che vuol dire il Veneto? Che vuol dire l'Alto Adriatico? A volte a Roma o chi fa le previsioni non conosce la differenza tra Trieste, Venezia, Chioggia, Verona. E poi, con un fatturato da 12 miliardi di euro l'anno, l'industria turistica è importante, è la prima in Veneto, e poi i turisti sentono magari che piove in Veneto e non vanno in Veneto. E invece, in realtà, le previsioni sono sbagliate. Oh, io voglio partire a salutare il colonnello Mario Giuliacci. Colonnello, buongiorno. Sì, buongiorno. Saluto gli ascoltatori. Ecco, e allora, colonnello, che succede? I meteorologi hanno un ruolo importante, certo, ma è vero ora anche siete sotto l'occhio, no? Critico. Ma lo siamo sempre, ogni qualvolta, voglio dire, una previsione può risultare sbagliata, ma poi magari ne parliamo più diffusamente. Non è vero che tutte le previsioni sbagliate recano danno al turismo. Per esempio, noi come centro Epson su 52 fine settimana ne sbagliamo il 10%, come dire, 5-6. Sì. E ora di questi 5-6 facciamo 8, conto pari, mi rovino oggi. Ma di queste 8 previsioni sbagliate, è possibile che siano tutte sbagliate nel verso sfavorevole agli albergatori e agli operatori turistici? No, di certo, da un punto di vista meramente statistico, queste 8 previsioni, 4 saranno sbagliate perché, diciamo, attenzione, nel Veneto piove e quindi la gente non va, poi c'è il sole e c'è un danno effettivo. Ma le altre 4, da un punto di vista meramente statistico, saranno sbagliate perché, diciamo, andate nel Veneto che c'è il sole, la gente va là, tutti quanti incolonnati sulla Serenissima, trovano la pioggia, noi come meteorologi prendiamo le maledizioni e loro si prendono gli euro, non so se mi spiego. No? Sì, quindi attenti quando si dice le previsioni sbagliate, non è che sono sbagliate sempre a senso unico. Però, no? Tra l'altro, colonnello, qui ci stanno ascoltando e li voglio salutare, l'assessore al turismo della provincia di Venezia, Giorgia Andreuzza, buongiorno assessore. Sì, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E il sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti, sindaco, buongiorno. Buongiorno, ecco, buongiorno. Così, insomma, l'abbiamo un po' accerchiata, colonnello, no? Ha già capito dove vogliamo andare a parare. Dove vogliamo andare a parare? Cioè, in passato è successo che previsioni sbagliate, non so, nel periodo di Pasqua, nei ponti, i ponti di 2-3 giorni, abbiano creato dei forti malumori, per usare un eufemismo, da parte degli operatori del settore che dicono adesso denunciamo i meteorologi. È possibile una denuncia, secondo lei, colonnello? È possibile, perché tutto è possibile, si hanno denunciato, voglio dire, coloro che devono prevedere i terremoti, che la previsione dei terremoti è mille volte più difficile che prevedere il tempo, quindi mi aspetto che prima o poi capiti anche questo, no? Quindi voglio dire, tutto è possibile, però voglio dire, attenzione, le previsioni si chiamano previsione, quindi chi adopera le previsioni già deve sapere che è implicito il concetto d'errore. Dirò di più, anche tra 1 miliardo di anni le previsioni del tempo si chiameranno previsione, perché questo errore è ineliminabile, perché fa parte della natura dell'atmosfera, e non dico oltre perché sarebbe, voglio dire, addentrarsi in un campo molto scientifico. Dice previsione è previsione, voglio dire. Cioè, tra l'altro, poi le previsioni certe o certe, diciamo, non so, una percentuale, possono dire il 90%, possono essere forse a 24 ore, 48 ore. Ma nemmeno a 24, neanche. Voglio dire, c'è un margine di errore anche lì, no? Ovviamente, quindi la certezza non può essere mai raggiunta. Poi, per sfortuna, può capitare che la previsione errata coinvolga la Pasqua. Non c'è nessun motivo per cui per Pasqua le previsioni devono essere, come diceva un noto conduttore televisivo, ma per Pasqua, per Diana, state un po' più attenti, no? Come dire, per Pasqua dovremmo, noi meteorologi ci mettiamo più impegno, ma l'impegno è lo stesso, è quello di tutti i giorni. Ovviamente può capitare, sfortunatamente, che il weekend che sbagliamo nelle previsioni sia proprio Pasqua. Sì, quando ci sbagliamo al 7 di aprile, un mercoledì, nessuno se ne frega, insomma. A Pasqua no. Allora, assessore Andreuzza, ma è una cosa davvero, so che addirittura ne parlerete lunedì, credo, a Jesolo ci sarà un incontro su questo, assessore Andreuzza, sì, provincia sì, di Venezia. Sì, effettivamente nel nostro territorio la provincia di Venezia è molto sensibile a questo, perché turismo vuol dire prima industria economica della provincia, per cui tutta la filiera dei nostri operatori ne è coinvolta, e questo fa sì che ovviamente c'è un'attenzione particolare, e anche le affermazioni del nostro governatore vogliono un attimino, ecco, aumentare il senso di responsabilità. Nessuno mette in dubbio appunto le capacità e il fatto che le previsioni appunto si chiamano previsioni, però è di fatto vero che gli operatori, diciamo, questa industria turistica è un po' in balia al tempo, per cui accettano magari una pioggia se arrivano, e può diventare più difficile accettare se non arriva e viene annunciata. Lei dice ci vuole più attenzione, cioè che dovrebbero fare? Il colonnello Giuliacci dice ma noi siamo sempre attenti, voglio dire, applichiamo quello che questa scienza, che non è una scienza perfetta, certo, per esempio io so che lunedì ci sarà un incontro proprio con gli operatori, gli albergatori in particolare, con l'amministrazione e con l'ARPAV, proprio anche per vedere se il monitoraggio può venire in maniera insomma più da vicino e anche magari più attento nelle fasce orarie, perché io adesso non so se è nella condizione, forse questo me lo può dire meglio il colonnello, se il posizionamento del Veneto, cioè il fatto di avere il mare, le montagne, i laghi, è cioè una situazione difficile. Particolare, per cui effettivamente dalla mattina alla sera a volte si stravolgono queste previsioni. E qui si vive soprattutto anche di un turismo pendolare, per cui proveniente per esempio dalle province vicine, ovvio che è inevitabile che si guardino le previsioni del tempo. Guardi, no, ma infatti, guardi, tra l'altro 9 italiani su 10 pare che siano legati alle previsioni del tempo, cioè 9 su 10 consultano le previsioni meteo. Ma questo è importante, perché c'è fiducia, cioè bella cosa, cioè c'è fiducia, non è che sia una mancanza di fiducia, anzi tutto rispetto nel lavoro, e ad oggi insomma la tecnologia sicuramente permette, penso, di sbagliare insomma il meno possibile, però dice una maggiore attenzione, perché noi siamo sensibili. Tra l'altro ci scrive una mail un ascoltatore, Massimo, dice: io per esempio sono a Trieste, quelle previsioni italiane non ci azzeccano quasi mai, quelle slovene invece sì, io guardo quelle slovene. Non so se il colonnello Giuliacci prima di andare a Forte dei Marmi in Slovenia hanno degli strumenti che noi ma guardi, l'erba del vicino è sempre più verde. Ancora ci sono quelli che mi dicono Lombardia, quelli di una certa età, che dicono: ma io ancora guardo per la montagna della Lombardia, per i laghi lombardi e il meteo della Svizzera. Beh, ma è un'affezione che uno può avere ereditato anni indietro, quando noi eravamo meno attenti e meno, diciamo, informatizzati in termini di modelli di computer sulla nostra area. No, tra l'altro, colonnello, io vorrei andare a Forte dei Marmi, dove c'è il sindaco Buratti, per l'appunto, dove l'anno scorso successe, io ricordo anche, ma un putiferio, possiamo dirlo, a Pasqua, sindaco, perché ci furono giorni annunciati di tempeste, eccetera, mentre in Versilia pare ci fosse il sole, con perdite quantificate di quanto, secondo voi? Ma senta, una bella percentuale, perché arrivarono veramente tante disdette, ma la particolarità della situazione fu innanzitutto preannunciata questa catastrofe, dicendo: il tempo per Pasqua ci sarà una perturbazione incredibile. Poi la cosa che ci ha colpito, che il giovedì, non mi ricordo, perché c'era il periodo dei riti dei pasquali, e quindi il parroco diceva: ma è il caso di farla o non farla questa processione? No? Addirittura. Poi abbiamo visto che era una giornata completamente di sole. Ebbene, loro davano acqua, giornata di sole, venerdì acqua, giornata di sole. Non è che qualcuno allora ha rettificato le previsioni, tanto che hanno confermato sabato e domenica acqua e sabato sole, domenica acqua e domenica sole. E tanto che voi volevate addirittura, cioè lei aveva detto: li denunceremo, certo, insieme agli albergatori. Certo, ma certo. Cosa che non avete fatto, no? Ma noi ci siamo mossi, abbiamo avuto tra l'altro anche un incontro con i vertici dell'aeronautica militare nel corso di una trasmissione televisiva e all'altre di questa, però devo dire che ecco, a mio modo di vedere c'è un po' anche di superficialità nel dare il tempo. Cosa voglio dire? Allora, noi abbiamo un servizio pubblico radio-televisivo dove viene dedicato poco spazio, e quando si fa la previsione si utilizza tutta l'area del nostro paese, mettendo dei simboli qua e là, dove in una zona come la nostra, la Versilia, dove c'è il mare, ma abbiamo anche le Alpi Apuane. Certo, quindi quindi cambia notevolmente. Noi abbiamo sulla costa magari il sole, e sulle Alpi Apuane, che distano pochi chilometri, nel pomeriggio il classico fenomeno magari del temporale. Invece si mette sul simbolo dell'Italia, si mette un bollone gigante che racchiude non so chissà quanti chilometri quadrati, lei dice, no? Mettono i giornali, sono piccoline, dove si vede una nuvola che tra poco copre tutta l'Italia. Oppure, allora, ci vorrebbe innanzitutto da parte di chi dà questa informazione un essere un po' più precisi. Io per esempio, un servizio pubblico come la RAI dovrebbe dare uno spazio maggiore, non che si sta due ore a parlare di chissà cosa, poi un minuto di tempo, cioè più il tempo delle altre notizie. No, questo è interessante, più spazio poi, al tempo cosa, dicevo, sì. Bisogna parlare sull'acquisizione di dati, Cioè, noi sappiamo che non tutti si rivolgono all'aeronautica militare. Sì. Alcuni giornali o televisioni si rivolgono a agenzie americane o di altri paesi. Mm. E allora, sicuramente poi vengono fatti questi calcoli matematici, modelli che vengono applicati, eccetera. Felice, chi controlla la serietà della cosa? Vengono verificati nel... Cioè, non è che si controlla e si dice, beh, va rettificato. Ecco, questo che è accaduto nella faccia del 2009. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? 8:47 minuti, allora queste previsioni del tempo che Zaia dice vorremmo un po' più federaliste, attenzione a dire piove e poi magari sul Veneto, nel nord-est, il nord-est che cos'è? Poi dopo il turismo ci va di mezzo. Maurizio da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io non so con precisione l'argomento, solo che ho notato una cosa sulle previsioni, più che darle sbagliate, non le danno proprio. Come, le previsioni nazionali generalmente glissano sul Veneto. No, che vuol dire? Cioè, perché c'è un... Cioè, dicono le previsioni del nord, sì. Precisano del Piemonte, sì. Della Lombardia, sì. E passano oltre. E come mai questo complottone? C'è un complotto? Non lo so, il complotto, ma io ho notato da parecchio tempo, però non da adesso. Che succede questo fatto? Del Veneto non ne parlano proprio. Colonnello Giugliacci, un colpo di stato, meteorologico. Sì, siamo tra i pochi. Mi rifaccio tanto a quello che è stato detto prima, sì. Dal sindaco di Forte Marmi, è vero, noi abbiamo appena alle volte alla sera 38 secondi per descrivere il tempo su tutta l'Italia, è chiaro che non posso parlare delle singole regioni sì, ma delle singole province no. Per quanto riguarda il Veneto, noi siamo tra pochi che citiamo Trevigiano, Veronese, Alto Veneto, e questo nessuno lo può negare. No? No, non è un colpo di stato meteorologico. Non sono d'accordo con l'ascoltatore. Per il resto il federalismo meteorologico già c'è, perché ogni regione ha la sua ARPA operante, il Veneto anzi ha una prestigiosa ARPA, forse è stata una delle prime a essere istituita, dove ci sono dei validi meteorologi, e quindi credo, certo, se avessero più mezzo potrebbero fare di più. Ma forse sì, esatto, discorso. Forse la questione è che uno segue quelle nazionali, magari sui telegiornali, e un po' si perde. Comunque, Fabio da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Io un po' riprendevo quello che è stato detto anche dal colonnello, ma anche dal sindaco. In realtà, stando all'estero, ad esempio, si vedono canali su cui i TG alla fine dedicano ampio spazio, anche dettagliato, alle previsioni. Sì. Ma la domanda è, di quei 9 su 10 italiani che guardano le previsioni spesso, quanti si affidano a quelle nazionali che sono quello che sono, e l'ho appena ben spiegato anche il colonnello, e quanti invece vanno a guardare le locali? Voglio dire a Zaia, io quando vado a fare, come tantissimi, il pendolare della neve d'inverno, non guardo il meteo del TG5, del TG1 e degli altri nazionali, perché non mi dice nulla. Si informa più a livello locale. Guardo i bollettini della neve sul televideo, su internet, ormai ci sono sistemi. No, ma su questo infatti assessore Andreuzza, voglio ricordare, assessore al turismo della provincia di Venezia, cioè gli strumenti locali ci sono, anch'io se vado a fare il weekend in una località di montagna, vado sulla località di montagna, metto meteo, che ne so, meteo Cortina d'Ampezzo, e escono fuori, insomma, cose un po' più particolari. Forse si tratta solo di renderle un po' più visibili, no? Ma ci sono, per esempio, anche il sito della Regione Veneto del turismo ha ovviamente il suo canale ufficiale attraverso l'ARPAV, però è proprio anche su quello che proprio il governatore, che ho sentito ieri, vuole lavorare, affinché appunto le previsioni possano essere fatte anche più volte in una giornata, due volte, proprio perché ci sono queste condizioni che cambiano. L'incontro tecnico che viene fatto lunedì con l'ARPAV è proprio per valutare come essere appunto più vicini, nel senso una previsione giornaliera per gli operatori in una condizione, diciamo, come quella veneta della provincia. Parlo della provincia di Venezia, dove ovviamente la stagione è anche molto stretta, perché ovviamente è fatta tutta di mare, per cui è limitata al periodo estivo. Allora le giornate diventano veramente importanti, cioè un giorno perso ha veramente delle ricadute notevori. Voi avete quantificato, non so, perdite l'anno scorso? Ma un 20% mi è stato riferito appunto dalle associazioni di categoria. Cioè quest'anno già perso per previsioni errate? No, quest'anno già è stato perso, perché appunto nel periodo di Pasqua, la Pentecoste, ecco, teniamo presente che noi abbiamo anche flussi che vengono dal nord, siamo a 100 km dalla Carinzia, per cui la nostra promozione viene estesa. La Regione Veneto è la prima, diciamo per presenze, prima regione turistica d'Italia, per cui viene fatta una forte promozione e di conseguenza... Come è andata la Pasqua? Io non mi ricordo la Pasqua dell'anno scorso, quella che per cui il sindaco di Forte dei Marmi, anche quest'anno... Non ricordo se è Pasqua, 25 aprile, comunque diciamo la fascia diciamo non di piena stagione, dove il turista magari prenota la vacanza, nella parte iniziale della stagione, dove oggi il turista anche cambia, per cui facilmente prenota, magari anche due giorni prima per il weekend, allora quei giorni diventano effettivamente molto importanti nella scelta della destinazione. Allora, chiaro. Senta, colonnello Giuliacci, vede che prima si diceva piove governo ladro, adesso piove meteorologi disgraziati, non dovete dirlo. No, vabbè, ma in questo momento, guardi, per Pasqua di quest'anno è stata terribile su tutta l'Italia, quindi non posso andare a colpa a meteorologi se pioveva. In questi giorni sta piovendo, ha piovuto su quasi tutto il nord Italia, le Venezie comprese, non dico dappertutto, ma io per esempio ricordo due giorni fa dicevo pioverà sulle Venezie eccetto le coste, come dire, differenziamo come si vede, però non è stato tempo bello, lo devono ammettere, la colpa non è nostra, casomai bisognerà rivolgere una petizione a Padre Eterno, ma non maledizione a meteorologi. Sì. No, sì. Sindaco Buratti a Forte dei Marmi, quest'anno per ora come va? Ci azzeccano di più per il momento? Ma io direi che purtroppo anche quest'anno abbiamo avuto dei fine settimana dove ogni tanto sbagliano, insomma, questo. Però ecco, io vorrei, capito, ma che possiamo fare? Io vorrei difendere i meteorologi, che possono fare? Cioè, essendo previsioni, credo, possono sbagliare. Mi scusi, no, le voglio dire questo. Noi ora stiamo valutando gli effetti negativi sul turismo e questo è quello che abbiamo evidenziato. Credo, tra l'altro, con le brutte notizie che arrivano dal sud della Francia, dove... Sì, lì sono drammatiche, certo. Noi domani ricorderemo i 15 anni dall'alluvione che c'è stata qua dietro, nella località sulle Alpi Apuane, la località del Cardoso, dove anche lì ci furono dei morti. Ora, siccome sta cambiando, purtroppo, i fenomeni, sono sempre più arrivano questi temporali, che sono temporali carichi di pioggia e quindi... si è modificato il clima. A questo punto io credo che sia proprio una questione di tutelare la vita e l'incolumità pubblica, quella di riuscire a dare delle informazioni precise e dettagliate. Noi come sindaci riceviamo dal sistema della protezione civile degli allarmi, la situazione d'allerta quando ci sono delle previsioni negative. Ecco, io credo che sia veramente importante che si dedichi più tempo, più risorse, più energie a cercare di comprendere e di dare una previsione. Sappiamo che quelle precise possono andare 24, massimo 48. E questo è infatti anche il colonnello. Quindi nessuno si spinga ad andare oltre. Questo però no, ma è la promessa, è la premessa che ha fatto anche il colonnello Giuliacci. Uno lo sa e le deve leggere per quello che sono, ecco, delle previsioni. Comunque vi ringrazio tutti, Mario Giuliacci, Umberto Buratti, sindaco Forte dei Marmi del PD, non l'ho detto, e Giorgio Andreuzza, assessore della Lega al turismo, provincia di Venezia. Stasera 18:30 siamo qua alla Zanzara, ci sarò ancora io, e se no lunedì mattina alle 7:30. Non mi resta che ringraziare Sara Spreafico in redazione, che saluta con la manina, e Peter Bescapè in regia, e vabbè, alla linea va Oscar Giannino.